nuovamente in studio martedì 17 ottobre 2023, altri suoni con Angelica al centro di ricerca musicale al Teatro San Leonardo per la giornata di domani mercoledì 18 ottobre, ovviamente alle 19:30. È il nuovo appuntamento di stagione, centro di ricerca musicale, come vi ho detto, al palco del Teatro San Leonardo, il duo Due Voci, fondato dal soprano Monica Benvenuti insieme a Cecil Lardigo, una delle rare suonatrici di Onde Martenot, e parleremo di questo strumento che mi ha affascinato tantissimo. Ho immaginato il theremin, ma è ancora prima per quanto riguarda certi aspetti. Ha anche un'estetica molto particolare. Insieme si esibiranno in una produzione italo-francese che è intanto una prima assoluta, da forma al progetto di Benvenuti e Lardigo di condividere l'universo sonoro che nasce dall'incontro di onde e voci in questo accostamento unico e insolito. Vedremo poi anche le interpretazioni, ovviamente ascolteremo anche un breve assaggio di queste sonorità. Beh, ripeto, il logo, l'immagine, lo sfondo di copertina per il programma di Angelica è un saltatore che sfida un'altezza, che appunto, come si dice, alza l'asticella della curiosità, dell'incontro musicale, di quello che è un contemporaneo che prevarica i tempi, e la curiosità che è fondamentale per conoscere non solo altri suoni, come del resto è questa rubrica già dal titolo, ma anche in questo caso per avere idea di strumenti e di sperimentazione e di ricerca già dai primi del Novecento. Sarà appunto protagonista il duo domani alle 19:30, il soprano Monica Benvenuti e Cecil Lardigo, una delle rare suonatrici di questo Onde Martenot. Ne abbiamo parlato con Walter Rovere, che la curiosità è anche la descrizione di questo strumento. Sentiamo le parole di Walter e poi un assaggio di questo incontro in note e musica. Sì, come detto, è una prima mondiale costituita dal soprano Monica Benvenuti, da Cecil Lardigo, e si intitola Due Voci perché è una serata basata sul dialogo tra la voce umana e quella delle onde Martenot, che sono uno dei primi strumenti elettronici, nato nel 1928 e che è stato usato molto nella musica contemporanea già negli anni 30 e 40, c'è la famosa Turangalila Symphony di Messiaen, ad esempio. Ma è stato usato anche nei film di fantascienza degli anni 60 o addirittura in Lawrence d'Arabia. Aggiungo, come possibile, negli ultimi anni si può ascoltare in Key Day dei Radiohead e in Random Access Memories dei Daft Punk. E il programma comprende tre composizioni di Silvano Bussotti, con cui Monica ha lavorato per tanti anni e che è stato uno dei più originali compositori di musica contemporanea italiani, uno sperimentatore di pazzesche partiture grafico pittoriche e autore di messa in scena operistica che fece lo scalpore negli anni 60-70, ha lavorato con personaggi che vanno da Katy Berberian a Tilda Swinton. Qualcuno ricorderà anche che è finito in copertina di Frigidaire nel 1981, un numero nel quale dedicò una partitura inedita a Rank Xerox. Abbiamo inoltre due brani in prima assoluta, uno di Francesco Giomi, che ha lavorato con Luciano Berio e con Bussotti e che tutti conoscono bene a Bologna come insegnante di composizione elettronica al Conservatorio Martini, ed è direttore di Tempo Reale, centro di produzione musicale fondato da Berio a Firenze. Ci sono spesso anche a Bologna le rassegne, come si chiamano, Martini Elettrico, che sono organizzate da Giomi con i suoi studenti che suonano. Infine c'è una prima assoluta di Luigi Esposito, che è un compositore e artista visivo romano che ha studiato e proseguito la strada di Bussotti nell'esplorare delle partiture pittografiche. Thank you. Monica, benvenuti, Cécile Artigot. Questo incontro e il comune denominatore è questo strumento di musica elettronica, ma io lo definirei elettrotecnica in questo caso, proprio per la funzionalità dello strumento che va a lavorare sulle onde. Onde Martinot 1928, portato da un violoncellista, e infatti delle attinenze ve ne sono. Stiamo ascoltando una composizione di Bussotti, come ha anticipato Walter Rovere, e per quanto riguarda le Onde Martinot, beh, sentiamo anche come è formato questo marchingegno, che per me è di un fascino incredibile. Sì, in realtà è un aspetto abbastanza normale, è una piccola tastiera, però diciamo che è stata inventata un po' dopo il Theremin da un violoncellista, e ha la caratteristica di produrre dei sandi, un po' come uno strumento tipo violoncello, perché si suona, ha una tastiera, però si suona prevalentemente con una specie di anello che scorre su un filo. Quindi okay. Praticamente si possono fare questi glissandi strani, ed è anche, tra l'altro Cécile Artigot è una delle pochissime virtuose che lo suona. È innanzitutto uno strumento costosissimo, rarissimo, cioè diciamo che le repliche odierne costano 12.000 euro, se ho ben capito, gli originali sono praticamente impossibili da trovare. E lei sarà addirittura, io l'ho vista suonare la Turangalli a Milano quest'anno a marzo, prossimo anno suona la Scala diretta da Zubin Mehta, per dire, insomma, è un personaggio di grande livello, Cécile. E tra l'altro qui a Bologna invece ha suonato un quintetto di improvvisazione con Gianni Gebbia e Heiner Goebbels per il nostro festival. E quindi uno strumento, insomma, particolare, tra l'altro ha una specie di palma che serve come amplificatore, che crea delle risonanze con il suono, quindi è anche, diciamo, bello da vedere. Sì. Interessante da vedere per gli studiosi di musica elettronica, perché non si vede molto in giro. Io l'avevo visto una volta a Raum, a Bologna, e poi qui da noi e basta praticamente. Sì. Infatti ci sarà occasione mercoledì 18 ottobre, ovviamente, centro di ricerca musicale, e avremo un appuntamento con Monica Benvenuti e Cécile Artigot, con le musiche di Silvano Bussotti, Luigi Esposito e Francesco Giomi. Io ringrazio il curatore di questa grazie parte a te, grazie di a voi. Rassegna, Walter Rovere, e appuntamento sempre con altri suoni di Radio Città Fujiko. Ciao Walter. Elettricista, la definirei musica da elettrotecnica in questo caso. L'elettronica è già qualcosa che arriverà dopo, insomma, siamo agli albori di una sperimentazione. 1928, prima metà del Novecento, e la voglia di conoscere questo strano, ma secondo me molto affascinante, strumento musicale con un amplificatore, esattamente, che dà l'idea della palma, il filo per creare l'induzione magnetica e una tastiera per variare le onde sonore. Cécile Artigot è una virtuosa, Monica Benvenuti è soprano per questo incontro tra voce e Onde Martinot. Sarà domani sera, mercoledì 18 ottobre alle 19:30, nella rassegna al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, nell'edizione di Angelica. Lui è Steve Jensen, ricordate i Japan con David Sylvian, ecco qui con un lavoro nuovo insieme a Nobekatsu Takemura e Barbieri in Changing Hands. Parleremo di questa formazione nel prossimo Altri Suoni, giovedì magari, eh? Domani voltiamo pagina, ritorna l'incipit di Silvia Pioggia, il venerdì andremo in scena perché oggi abbiamo la conferenza stampa di Bologna Jazz Festival e domani invece la rassegna Gender Bender che poi porteremo all'interno di In Scena al venerdì. Come la ricerca rimane Land Martenot, tra l'altro è stato adoperato anche nella produzione di quello che per me è il disco più bello uscito tra il 2010 e il 2020, esce nel 2012 esattamente, che è Random Access Memories dei Daft Punk. Ecco, Land Martenot, come abbiamo ascoltato da Walter, è stato adoperato nella produzione delle sonorità del duo francese, un disco bellissimo con Niles Rogers, anche questo musicista che per la disco ha dato grandi successi, la presenza di questo strumento di musica elettrotecnica. Changing Hands, il disco At Eleven, il brano che stiamo ascoltando, un po' di musica, due minuti di musica, ci accompagna la pubblicità, Paolo Onofri alzerà la palla 2 per questo Mood Groove, continuità, discontinuità, epoche, un protagonista, e questo sarà l'incontro tra NBA e filosofia per la puntata che mette insieme il parquet e la pallacanestro. Ovviamente ci sarà tanta musica tra jazz, funky and soul, e tra pochissimo, dopo la pubblicità, partiremo con il Mood Groove di oggi, martedì 17 ottobre 2023. A tra poco!